Friuli nel mondo, 226esima trasmissione dedicata agli emigrati. Luigi Garzoni, il cantore del Friuli. Se n'è andato calmo e sereno, sull'onda della sua musica dolce e patetica, il giorno di San Valentino, festa degli innamorati. Lui, innamorato della musica, del bel canto e del Friuli. Così fu anche scritto del maestro Luigi Garzoni al momento della sua scomparsa, mentre una folla commossa, proveniente da tutto il Friuli, da ogni angolo della terra da lui cantata con le sue indimenticabili villotte, rendeva omaggio alla salma del delicato compositore spentosi a 82 anni, dopo averne spesi oltre 60 nell'educare i giovani alla musica e al canto corale, trasfondendo in essi l'amore per il Friuli. Luigi Garzoni avvertì sopra ogni altra cosa, anche al di sopra del lusinghiero miraggio offertogli dagli studi classici che dovevano avviarlo alle discipline giuridiche, la vocazione musicale. Oltre all'insegnamento, svolto con passione e dedizione non comuni nelle scuole di Udine, Luigi Garzoni, maestro, nel senso vasto della parola, curò una messe abbondantissima di composizioni, le quali, in maggiore o minore misura, pur attingendo al patrimonio musicale popolare, risentono di una inconfondibile linea melodica che può considerarsi lo stile del compianto artista. Thank you. E artista ricco di sentimento appare il Garzoni quando canta il lavoro, rendendo la letizia della vendemmia, della mietitura o il ritorno dai campi alla sera sui carri colmi di fieno, o celebra l'immutabile vicenda delle stagioni, o invoca la pace dopo tanta guerra, o infine tenta un più alto tema, esaltando le glorie dei nostri paesi e quelle millenarie di Aquileia. Molto scrisse per i fanciulli, specialmente inni scolastici, mini operette e azioni coreografiche. Nelle ordinatissime cartelle che gli ha lasciato, Numerose sono quelle riguardanti temi e argomenti di carattere religioso, conoscitore profondo qual era di musica classica e gregoriana. Ma soprattutto, tanto a lui deve la rinascita del canto popolare. In Carnia, in modo particolare fin dall'immediato dopoguerra del 15-18, egli spiegò azione intensa, rivolta alla raccolta di antichi motivi e alla costituzione di formazioni corali nelle varie vallate della regione. Azione che gli svolse, si può dire, con spirito giovanile fino ai suoi ultimi anni. Ai tanti riconoscimenti, meritatamente assegnati al caro maestro, va giunto ora il fiore della rinnovata, affettuosa riconoscenza di Friuli nel mondo. A nome delle migliaia e migliaia di nostri corregionali emigrati che hanno gioito e pianto nell'ascoltare le esecuzioni, effettuate innumerevoli volte all'estero, dai gruppi corali della Carnia prima, e poi dal complesso dei suoi cantori del Friuli, che egli per l'ultima volta guidò in una serata memorabile, allorché il sindaco di Udine espresse la gratitudine del Friuli all'ottantenne maestro con la consegna di una medaglia d'oro di benemerenza. Dalla copiosa produzione musicale del geniale compositore, raccolta in pubblicazioni e registrazioni discografiche, avete ascoltato alcuni canti, cari fratelli lontani, proprio dalla voce dei bravi cantori del Friuli di Luigi Garzoni. E per concludere, eccovi ora la composizione forse più delicata e più nota, Chiampanis di Sabi de Sere. Yeah. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.